Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Egregio direttore, a furia di sentir parlare di annullare la pausa pranzo, mi chiedo, ma il ministro per l'applicazione del programma elettorale cosa fa esattamente tutti i giorni? A me pare che il programma elettorale sia, almeno in parte, non realizzato, visto che l'abolizione delle province non è stata fatta e soprattutto non se ne parla mai. Anzi, di province nuove ne hanno fatte altre due. Inoltre, sempre a proposito del programma elettorale, ci avevano spaventato con il problema della delinquenza sotto casa, addirittura sullo zerbino di casa. Ed ecco le ronde, armate o meno. Chi ha visto o sentito più nulla? Allora si trattava solo veramente di lucciole per lanterne ai fini del programma elettorale. E cosa fa tutti i giorni il ministro per la semplificazione? Di cosa, mi domando, delle norme? A me sembra che le recenti proposte di legge, vedi processo breve, vadano a sovrapporsi a tutta una serie di norme già esistenti, procedurali e meno, e che finiranno per produrre un'ulteriore complicanza di norme. Infatti, si discute se questa legge produrrà problemi sul 50% oppure sull'1% dei procedimenti in corso. È questa la semplificazione? Infine, vorrei ricordare che questo ministro è la stessa persona che scrisse la legge elettorale, definita poi dal medesimo una porcata. Uomo giusto, al posto giusto. Vorrei concludere con un'annotazione. Berlusconi continua a ricordarci che è stato eletto dalla maggioranza degli italiani e che quindi tutto quello che fa, direttamente o indirettamente attraverso i suoi cortigiani, per differire o far decadere i processi a suo carico, è giusto perché la maggioranza degli italiani vuole che sia lui a governare il paese. Domando. Ma vista la legge elettorale che ha posto Berlusconi a capolista in non so quante circoscrizioni elettorali e che quindi ovviamente ha dato l'esito che conosciamo, è realmente corretto affermare che sia stato eletto dalla maggioranza degli italiani? Eugenio, Milano. Tremonti sa che la presenza dell'Italia nell'euro non è un fatto che dipende dalla volontà del solo governo italiano. Anzi, è il benvolere dei soci europei che permette di tollerare un socio instabile e indebitato come noi. Qualcuno dirà che anche la Grecia è messa come noi. Vero, ma è anche vero che la Grecia ha un PIL come quello di una media regione italiana e la sua massa debitoria è molto bassa in termini numerici assoluti. La percentuale sul PIL è un dato importante se l'economia è importante, altrimenti no. Ora, quello che Berlusconi teme non sono le dimissioni, ma quello che Tremonti potrebbe dire agli italiani. Quelli ricchi, eppure quelli no. Potrebbe dire che se i conti pubblici dovessero crollare, l'uscita dell'Italia dall'euro sarebbe cosa non da escludere, se non addirittura probabile. Tremonti sa come questo governo sia fisicamente e politicamente incapace di tagliare le spese o di aumentare le tasse. E questo darebbe ai tedeschi, olandesi e francesi la scusa che da molto attendono. Siete incapaci di ridurre il debito. Qualcuno dirà che anche gli altri si stanno indebitando. Vero? Ma partono da un debito che è intorno al 55-60% del PIL. Noi partiamo dal 112-115. Semplicemente il doppio. Come credete che reagirebbero gli italiani all'idea di vedere l'abbandono dell'euro e tornare a una moneta che sarebbe divorata in pochi mesi da un'inflazione a due o tre cifre? Il fattore valutario potrebbe in certi casi anche essere d'aiuto per le esportazioni. Ma chi lo dice ai pensionati, ai lavoratori, alle piccole partite IVA, che i loro soldi si liquefaranno in pochi mesi? Tremonti sa, e sa che anche Berlusconi sa. Vedremo. Giorgio. La politica italiana ha raggiunto il livello più basso dal 1950. L'unica differenza tra destra e sinistra è che la destra mangia e lascia mangiare, mentre la sinistra mangia solo lei. Tutto il resto sono solo chiacchiere. Giovanni. Personalmente, credo che sia quantomeno utopico pensare che anche solo per una volta si abbia il coraggio di interrompere una partita a causa di cori razzisti o per comportamenti non consoni da parte del pubblico. Nel nostro sventurato paese, il vero sport nazionale non è certo il calcio, ma il parlare a vanvera. Non solo nello sport, ma in ogni singolo aspetto della vita politica e sociale dell'Italia, non si fa altro che annunciare fantomatiche leggi risolutrici, pugni di ferro contro questo e quello, misure eccezionali, sanzioni pesantissime e altre amenità del genere, per poi rendersi conto che, nel miglior stile gattopardesco, nulla mai muta. Questo perché, a mio modesto modo di vedere, nulla muta nella testa dell'italiano, sempre pronto all'indignazione profonda per la mancata concessione di un calcio di rigore, visibile solo dopo 630 rallenti, ma decisamente meno reattivo quando c'è da parlare di cose appena un poco più serie della più blanda fuffa. Da questo punto di vista, lo stadio ha una grande colpa, o merito, quella di raggruppare in un unico luogo 20, 30, 40 mila italiani, mettendo purtroppo in bella vista il vuoto mentale che alberga in molti di loro. Perché se è vero che non è certo tutta la tifoseria a lanciarsi in queste amabili esternazioni, è altrettanto vero che gli altri presenti non è che facciano poi chissà che per dare un segnale diverso. Se gli stadi restassero dei vuoti catini di plastica e cemento, forse allora qualche mirabile dirigente sportivo potrebbe anche balenare in testa che in effetti c'è qualcosa che non quadra. Ma sinceramente nutro ben poche speranze che ciò possa mai accadere. Con buona pace del nostro commissario tecnico, che così si convincerebbe ancora di più che nel calcio il razzismo non esiste, in quanto problema confinato alla società civile o incivile. Andrea. Egregio direttore, vorrei richiamare la sua attenzione sul problema del vero Made in Italy. Chi le scrive è un'orlatrice artigiana di calzature uomo che opera nel distretto marchigiano della calzatura. Il nostro territorio sta attraversando una profonda crisi, dovuta sia al momento contingente, sia alla selvaggia delocalizzazione che molte imprese medie e grandi stanno effettuando. C'è una forte lobby che ostacola la normativa del Made in Italy 100%, perché queste imprese producono con costi cinesi e vendono a prezzi europei con il marketing del Made in Italy. Dietro a questi prodotti non ci sono però i mastri calzolai, come molti spot vogliono far credere, ma c'è il lavoro di maestranze straniere trattate come nuovi schiavi, senza diritti sindacali e sottopagati da moderni schiavisti. Quando si acquista una scarpa Made in Italy, si esiga che il produttore elenchi dove svolge le fasi di produzione per giustificare il prezzo richiesto alla clientela. Non abbiamo paura di perdere il nostro know-how, perché la nostra maestria non è altro che l'evoluzione di un intero territorio dove abilità, inventiva e manualità circolano da secoli. La provincia di Fermo è la capitale delle botteghe artigiane, presenti quasi in ogni casa, dove il prodotto che esce è di grande qualità. Ma gli imprenditori di brand prestigiosi, che hanno la possibilità di imporre alti prezzi, non possono pensare di strozzare i loro fornitori e subcontractor o innescare una guerra dei poveri fra artigiani locali e contoterzisti cinesi in Italia, perché ciò significherebbe distruggere un territorio. Esigete quindi l'etichettatura del vero Made in Italy, per fare in modo che l'alto prezzo sia già giustificato. Anna Laura. Gentile Anna Laura, il problema che lei pone, quello del lavoro nero degli immigrati, è rilevante sia sotto il profilo economico che lei sottolinea, sia, e direi soprattutto, sotto il profilo umano. Vengono peraltro periodicamente alla ribalta notizie sulla scoperta da parte delle forze dell'ordine di piccole fabbriche e laboratori clandestini che occupano senza regole manodopera clandestina, appunto. Non si tratta sicuramente di casi sporadici, anche se è difficile stimare il fenomeno, è possibile che per un caso scoperto ce ne siano almeno altri 10 che continuano nascosti e indisturbati. È chiaro che queste fabbriche, oltre a violare i diritti umani, costituiscono una concorrenza illecita e sleale verso chi rispetta le regole, garantisce la qualità, utilizza le capacità e la perizia di lavoratori che pagano tasse e contributi. Lei chiede che il marchio del Made in Italy divenga anche una garanzia di regolarità della produzione e di pieno rispetto delle regole. Sono d'accordo, così dovrebbe essere e ne avremo tutti da guadagnare. Faccio parte di coloro che lavorano per la pubblica amministrazione. Mi fa sorridere la proposta del ministro Brunetta relativa all'obbligo della gentilezza e cortesia richiesta per decreto legge ai lavoratori pubblici. Io mi domando, ma chi non è gentile, cosa subirà? Forse nella testa del ministro ci sarà la creazione di una commissione per la gentilezza e la cortesia, che verrà finanziata a suon di euro, vedi la commissione per l'operazione trasparenza, che dovrà vigilare sui dipendenti pubblici. Io penso che la gentilezza e la cortesia siano insite in ognuno di noi e che dovrebbero esserci da entrambe le parti, sia da parte dei dipendenti pubblici, che svolgono un servizio pubblico, sia da parte dell'utenza che usufruisce di questi servizi. Io penso sempre che la verità stia nel mezzo e che non bisognerebbe martirizzare i dipendenti pubblici dando sempre loro addosso, perché, per quanto se ne dica, la pubblica amministrazione funziona. Magari non sarà efficientissima, ma funziona. Quindi qualcuno che la fa funzionare c'è. Massimo, Torino. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.